La regola delle tre consonanti. La prima regola dell'ortografia sarà che tra due vocali tre consonanti non si debbe apporre. Onde scriverassi santo, pronto, ostacolo, mostro, nome e verbo, costanzia, sostegno, trasmuto, trasporto, pospono, posposto, e così tutti gli altri tali. Giovan Francesco Fortunio